sia una grande festa. Va a covarti il vino dallo stomaco alla testa. Bevi quel che c'è e quindi pure quel che resta. Festa. E balla, salta, sputa e pesta i piedi dentro il mosto della vita e grida fino a che fa buio pesto. Stracchi dentro il letto e che non sia un gioco casto. Danza, danza come il tempo con le rughe. Brucia ogni risorsa finché calano le toghe. Sia il fuoco in ane come il rogo per le streghe vaghe. Dimentica l'onore quando rende l'uomo atroce. Orrore del lavoro espletato nella luce. Piegato sulla schiena con soltanto un fil di voce. Tace. Ammorbidisci la coscienza del fiato della vita, si è ammorbata la tua stanza e non per volontà il cuore dona la sua essenza. Pensa e non pensare a niente, a volte più che sufficiente. Un'esigenza urgente, una questione importante, prossimi a ciascuno la distanza inesistente. Niente. Attesa snervante e dondolo indolente verso te. Mangio la pelle e sputo i capelli, la pilli di stelle sarò. Povero di spirito, l'iname la sua pena e vive senza merito, è l'ombra sulla scena. Indulge e poi patteggia come l'acqua con la schiuma, fuma. Un giorno dice spera, ma la forza non è troppa. Piantato nella vita, ammazza passeri di stoffa. Invece quel che è annientato.